il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. La settimana scorsa al Quadrifoglio abbiamo parlato di strade del vino e dei prodotti tipici come strumenti per valorizzare il territorio. Ma non vi sono solo i prodotti coltivati, sempre più spesso si riscoprono le tradizioni popolari che utilizzano, soprattutto in una stagione come quella primaverile, anche erbe e piante spontanee. Tutti forse conosciamo i bruscandoli o i radicchi che si trovano lungo le rive dei fossati. A Mel, per esempio, a metà di maggio si tiene una festa detta delle radicelle dedicate al tarassaco, ortiche e altre erbe della zona montana. C'è però una pianta che non è così nota e alla cui valorizzazione sta pensando la comunità di Valdagno, che è l'erba detta maresina. A questa pianta viene dedicata una 2 giorni di festa il prossimo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 aprile. A raccontarci che cos'è e come la si propone abbiamo ospite oggi Emanuela Perin, presidente della Pro Valdagno. Benvenuta. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che è tornata la primavera ed è rispuntata la maresina, come lei ha anticipato. E la si trova nei versanti delle colline attorno a Valdagno. La spontanea, esatto, che popola i nostri fossati, i nostri orti. Però noi abbiamo utilizzata da tempo proprio nel luogo gastronomico, nel territorio, nelle nostre ricette. Quindi è un'erba che in un periodo di crisi come quella che stiamo vivendo può essere la riscoperta di alcuni prodotti e tipicità del nostro territorio, possono davvero costituire un elemento prezioso anche di microeconomia. Noi di Pro Valdagno stiamo facendo proprio una promozione ripartendo da queste radici di questa erba spontanea, perché si inserisce benissimo nell'attuale fenomeno della riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali. Ecco, ma partiamo da che cos'è esattamente questa erba? È una pianta? Ma alla fine questa erba spontanea è un partenium, esattamente il nome botanico, ed è un'erba che ha un sapore leggermente amarognolo e ha anche proprietà farmacologiche riconosciute. Quindi è un'erba che è stata utilizzata da sempre dalle nostre nonne, e quindi è stata utilizzata soprattutto l'erba maresina, un'erba spontanea alla quale Valdagno è legata a moltissimo tempo, la tradizionale fritola con la maresina, che è una frittella fatta con acqua, farina, riso e maresina, che viene fritta e costituisce proprio uno snack da passeggio. È un prodotto caldo, croccante, profumato di erba, ed è proprio un prodotto che è apprezzato perché evoca ricordi di odori, sapori di erbe, di orto. Ecco, ma questa è poco nota anche nel Veneto, è un'erba che si trova soprattutto da voi oppure in altre zone non la conoscono? Ci sono altre zone che è presente, però non è conosciuta. Noi probabilmente è stata scoperta dalle nostre nonne, quindi utilizzata, come non è che sia tipicamente proprio della zona della Valle del Lagno, però probabilmente non è conosciuta in altri luoghi. Ecco, al di là della fritola, come poi la utilizzate in nei piatti? Allora, la utilizziamo in piatti perché è molto versatile, tanto che è nato anche da questa maresina, un concorso culinario che si chiama Maresina d'Argento, che è stata curata dal chef Amedeo Sandi, dalla signora Polita Gabriella di Valdagno, e da questa erba possono nascere prodotti diversi. Noi di Pro Valdagno stiamo proprio cercando di utilizzarla in svariati modi, perché abbiamo creato del formaggio con la maresina e dei prodotti da forno, grissini, cracker, biscotti. Stiamo producendo del pesto con la maresina e possono esserci delle marmellate, delle tisane, quindi come vede è molto versatile, è nata da una ricetta molto semplice, però può essere utilizzata in moltissimi. Ma viene anche coltivata o la si trova proprio lì spontaneamente lungo le strade? È una erba spontanea, però viene anche coltivata in alcune serre adesso a livello proprio biologico per riuscire a dare un prodotto che sia in linea anche con le nostre esigenze. Ecco, ci sembrava interessante, al di là della maresina, proprio il fatto che attraverso questo prodotto, tra l'altro spontaneo e anche poco noto, voi state cercando di riuscire anche a valorizzare turisticamente ed economicamente una vallata, cioè a partire da questo piccolo prodotto si costruisce un progetto che cerca di far conoscere una vallata che turisticamente è poco nota in realtà rispetto ad altre del Veneto. Penso sì che purtroppo siamo un po' incuneati nella valle, anche se abbiamo un paese che ha un centro storico di tutto rispetto, abbiamo la città sociale che è di Gaetano Mazzotto, che è un gioiello dal punto di vista architettonico e proprio di architettura industriale, credo unico in Europa, e quindi dovremmo veramente cercare di creare un turismo incoming che ci faccia apprezzare e valorizzare. Da questa piccola erba abbiamo per esempio creato questa festa della Maresina che si svolgerà nel prossimo fine settimana, dove abbiamo improntato un programma che prevede la prima giornata la promozione del prodotto, diciamo, gastronomico, seconda giornata la promozione del prodotto dal punto di vista culturale. Ecco, su questo torniamo tra poco, ci fermiamo per qualche minuto. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Se non ne avrai bisogno, ma ci sarà. torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando della malesina, questa erba spontanea che sta un po' dando lustro anche ad una vallata, quella di Valdagno, che sarebbe da riscoprire anche turisticamente. E, volevamo capire dove si può assaggiare questa erba all'interno di questi prodotti che state realizzando. Allora, si potrà assaggiare nell'ambito di questa festa, dove prevede la prima giornata del prodotto gastronomico proprio come degustazione in alcuni esercizi commerciali del centro storico, dove faremo le presentazioni dei prodotti e la degustazione. Ci sarà poi nell'ambito del centro storico una bancherelle con la mostra mercato, con prodotti fatti appunto con questa erba e non solo, magari anche con altri prodotti del territorio. E sarà presente anche alcuni ristoranti del paese dove hanno proposto un menù proprio ad hoc per la giornata della malesina, ovviamente utilizzando questa erba sia nei dolci che nei piatti salati. Ecco, e quindi per tutte queste due giornate si potranno assaggiare questi prodotti in modo molto approfondito. Ecco, diciamo, ricordiamo che questa festa si tiene sabato 12 e domenica 13 di aprile e quindi è anche l'occasione un po' per conoscere questa vallata e anche i versanti attorno di queste prealpi, diciamo, che sono... Abbiamo un contesto paesaggistico molto bello, molto particolare, abbiamo delle colline e montagne molto pregevoli. Abbiamo, come dicevo prima, anche dal punto di vista della storicità del nostro centro storico, abbiamo previsto nella seconda giornata un tour dei giardini segreti di alcuni palazzi del centro storico con una guida. Ci sarà un concerto del coro polifonico della scuola di musica Marzotto, che è un fiore all'occhiello della nostra città. Quindi ci saranno dei momenti di aggregazione, speriamo piacevoli per tutti quanti gli intervenuti. Benissimo, io la ringrazio. E niente, ci diamo appuntamento per assaggiare allora questa nuova scoperta. Grazie. Ci aspettiamo sicuramente numerosi, la ringrazio, buongiorno. E passiamo adesso ad alcune notizie. La Giunta Veneta ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione di domande di conferma degli impegni presi nell'ambito del PSR Veneto 2007-2013. Sono spostati al 9 giugno i termini che interessano le misure numero 214 e 221. Al 31 maggio invece la scadenza degli obblighi di condizionalità e dell'obbligo di iscrizione al sistema web Irriframe per tutte le aziende soggette all'impegno irriguo. Cambiamenti in vista per le produzioni biologiche nell'Unione Europea. La Commissione ha infatti proposto di rafforzare e armonizzare le norme che regolano la produzione biologica sia all'interno dell'Unione che relativamente ai prodotti importati. Il documento propone di sopprimere molte delle attuali eccezioni in materia di produzione e di controlli e di facilitare il passaggio dei piccoli agricoltori all'agricoltura biologica introducendo la possibilità di aderire a un sistema di certificazione di gruppo, semplificare la legislazione per ridurre i costi amministrativi a carico degli agricoltori e migliorare la trasparenza. L'Associazione Universitaria Studenti Forestali AUSF di Padova, al termine di un corso dedicato alla meteorologia e alle applicazioni professionali, organizza un convegno che si terrà nell'Aula Magna del Pentagono Agripolis di Legnaro. Titolo dell'evento: Cambiamenti climatici, quali aggiornamenti alla luce del quinto rapporto IPCC. Il convegno è presieduto da Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana ONLUS. Il convegno è aperto a tutti, si potrà vedere anche in streaming. E parliamo adesso di vino. Oggi al Vinitaly è stato il giorno di vitigni veneti meno noti ma ugualmente riscoperti come base per la spumantizzazione. Va segnalato infatti il fiorire di spumanti prodotti da vitigni considerati non classici e un'espansione del gradimento di bollicine provenienti da uve nere con colorazioni rosate. Sono stati presentati quindi, tra gli altri, spumanti a base di uve nere Gruaia, diffusa nella zona di Breganze, il Raboso Piave, la Cavrara, varietà presente nella zona dei Colli Euganei, la Pavana, presente in Valbelluna. Quanto alle uve a bacca bianca, ecco la Pedevenda, anch'essa diffusa nella zona di Breganze, la Boschera dei Colli di Conegliano, il Grappariol diffuso nella zona del Piave, la Pinella presente nel Padovano e la Bianchetto presente nel Bellunese e Colli Asolani. E poi sono stati presentati anche altri spumanti, le uve sono state lavorate presso il centro vitivinicolo di Conegliano di Veneto Agricoltura. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il Quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it.